Dai sobborghi fiorentini, appunto, passaggio al nord-ovest, tutti i lunedì alle 13, il martedì in replica alle 15.30, il mercoledì sempre in replica alle 18 e il venerdì in replica ancora alle 15.30. Oggi ci ascoltiamo la seconda parte, la lunga intervista a Maria, lavoratrice della sanità all'ospedale di Careggi, e potete ascoltare la prima parte, così come tutte le trasmissioni di passaggio al nord-ovest e tutte le trasmissioni Radio Wombat, andando alla pagina podcast della radio sul sito appunto wombat.noblogs.org. Inoltre sul sito della radio il palinsesto, la lista con una piccola descrizione delle trasmissioni, e nella pagina principale chiaramente i podcast via via appunto che le trasmissioni vengono effettuate. Profilo Twitter di Radio Wombat, appunto Radio Wombat FI, posta elettronica posta Wombat @insiberia.net. E appunto ci ascoltiamo la seconda parte dell'intervista. Buon ascolto. E ecco, ti volevo chiedere, te lavori a Careggi, secondo te in generale, ecco, c'è differenza sia da un punto di vista dell'utenza sia da un punto di vista dei lavoratori rispetto a un ospedale, come la chiamate, così, così ricettivo, che riceve tanti pazienti e allo stesso momento c'ha tanti lavoratori, rispetto a un presidio ospedaliero più piccolo? Ecco, forse prima si vede a Reggio come appunto una soluzione, ma magari ecco la chiusura degli, o meglio non lo so, me lo devi dire anche se c'è stato dei presidi, diciamo nei centri minori, ecco, porta un ancora maggior carico, o ecco, comunque potrebbe essere non una soluzione vera e propria, però diciamo un miglior modo, ecco, di far funzionare la sanità da tutti i punti di vista. Posso risponderti in questa maniera, cioè nel senso che diciamo il servizio sanitario è stato molto centralizzato. Quindi cosa succede? Che ci sono grandi ospedali, come può essere Careggi, ma si può fare l'esempio di Pisa. In ogni città, Pisa, Siena, per parlare di Toscana, no? Cioè, dove lì viene investito molto a livello di strumenti, a livello di tecnologie e a livello anche di formazione. Mentre invece cosa succede? Negli ospedali più piccoli sono stati impoveriti in tutti i sensi. Ora, tanto per fare un esempio per capirci, tra l'ospedale che ci può essere a Borgo San Lorenzo e Careggi c'è un'enorme differenza, no? Perché che non è solo quantitativa. No, non è solo quantitativa, perché semmai anche l'ospedale di Borgo San Lorenzo gli è aumentata la mole di lavoro, perché come ti ho detto prima anche lì l'ospedalizzazione è stata diminuita, quindi c'è un rigiro di utenza molto più grosso, più accentuato rispetto a prima. Però ci sono a livello semmai formativo, oppure prima di comprare una TAC nuova, perché s'aspetta, si fanno gli esami diagnostici con TAC vecchissime, mentre in ospedali come può essere Careggi trovi le ultime diciamo TAC uscite, le ultime risonanze. Si investe molto nei grandi ospedali, però nell'investire tanto nei grandi ospedali si impoverisce tutto il resto. Ti volevo chiedere anche, magari anche questa può sembrare una, come dire, una problematica minore, però l'accesso, ecco, all'ospedale da un punto di vista dei trasporti e anche, come dire, l'usufruire, no? Cioè la mensa, sia da tutti quei servizi di contorno che, se gestiti bene, migliorano la vita sia dell'utente, sia del visitatore, purtroppo dell'utente, sia dei lavoratori. Ecco, il parcheggio, ci sono difficoltà anche da questo punto di vista, in particolar modo di careggi, vista la collocazione, oppure diciamo, no, non c'è una possibilità particolare di migliorarle. Allora, anche questo è un discorso che porta a una grossa riflessione. Ad esempio a Careggi c'è il centro commerciale dentro Careggi, ci sono i negozi dal parrucchiere a Carrefour, al negozio di intimo, al bar, alla pizzeria. E sì, in un certo senso l'utente che, immaginiamoci l'utente che viene da fuori Firenze, ha la possibilità di trovare dentro l'ospedale determinate cose che gli possano semmai mancare, doveva andare semmai di spostarsi e andare a trovarlo nei vari negozi del quartiere. Ora ce l'ha lì, però diciamo che per noi lavoratori fa un po' specie questa cosa, avere un centro commerciale all'interno dove semmai la segnaletica la vedi più c'è scritto enorme centro commerciale e piccino c'è scritto semmai il reparto di medicina con il nominativo del professore, del primario. Cioè si dà molto Enfasi, perché si enfasi. vende Bravo, e costa la roba, si dà penso molta una tena enfasi, gratis. sì, si dà molta enfasi su questo e a livello anche di propaganda e semmai il resto, cioè, a me mi scappa da ridere perché delle volte quando ci incontrano per la strada gli utenti ci chiedono perché non capiscano, non sanno più arrivare al reparto tale, no? Però il centro commerciale lo conoscono tutti e questo la dice lunga. A livello di parcheggi, di servizi vari, ora lavoro in un'azienda ospedaliera dove ora addirittura arriva la tranvia, quindi diciamo come mezzi pubblici, se così si può continuare a chiamarli, l'utente ce l'ha gli strumenti. Però ti faccio un esempio, quegli ospedali nati con il project financing, no? Tipo Massa, Lucca, Pistoia, Prato, tutti questi servizi sono in mano al privato, capito? Sono in mano al privato, quindi ora anche a Careggi i parcheggi li paghi, però all'interno c'è un numero limitato di parcheggio anche per l'utenza oltre che per i dipendenti, mentre in alcuni ospedali io so, per sentito dire da colleghi, che si pagano anche il parcheggio per andare a lavorare, cosa che per ora a Careggi questo non avviene. Ecco, ti volevo chiedere anche che impatto ci ha avuto rispetto ai diritti, diciamo, dei lavoratori di Careggi tutta la serie di normative, da la polizia, insomma, dai Jobs Act, la polizia, l'articolo 18, diciamo, tutte quelle normative, norme sempre più restrittive da un punto di vista dei lavoratori, sia rispetto al lavoro in sé, sia rispetto alle critiche, diciamo, al lavoro che svolgono. Ecco. Sono norme di carattere generale, ecco, nello specifico. Allora, si sta parlando di pubblica amministrazione, quindi il Job Act per ora noi lo sentiamo in maniera diversa da come è vissuto fuori negli altri settori. Io sono una lavoratrice entrata a Careggi tramite concorso pubblico a tempo indeterminato, però per esempio i miei colleghi che sono a tempo determinato o i miei colleghi che lavorano a gomito, cioè nel senso facciamo tutte e due le solite cose, ci vengono chiesti i soliti anche sacrifici. Ma c'avete una normativa dal punto di vista dell'orario, dal punto di vista. del salario diversa. Allora, come stipendio base ce l'abbiamo uguale, fortunatamente. A livello di diritti c'è la sua differenza, cioè, lo ammetto, la cosa, almeno a me personalmente, mi mette in una situazione anche di disagio con il collega che semmai fa il mio solito lavoro e lui quando gli viene chiesto una cosa o la fa oppure non ha possibilità di dire no, perché non viene richiamato oppure viene mandato via, spostato in un altro ospedale oppure non più richiamato in tutto il territorio fiorentino, capito? Quindi c'è proprio una disparità di rapporto tra colleghi. E niente, diciamo come diritti per noi a tempo indeterminato presi tramite concorso pubblico, diciamo i diritti che avevamo e Contratti del settore restringiti. Sì, sono stati anche lesi, perché prima, ad esempio, il part-time, che un lavoratore diminuiva il proprio stipendio e le proprie ore lavorative per determinati motivi, che potevano essere da qualsiasi motivo, dal figlio al genitore, oppure anche per altri impegni che uno si dà nella vita, prima lo chiedeva e gli veniva tranquillamente dato il part-time senza alcun problema. Ora ci sono dei criteri ben ristretti per poter accedere e ogni 2 anni viene rimesso in discussione il part-time che te hai chiesto. Oppure, ad esempio, per quelli che hanno bisogno della 104 perché hanno un familiare da dover assistere a casa, mentre prima veniva data, tanti mi possano anche dire con troppa facilità, io sinceramente chi chiede la 104 voglio vedere come, ecco, non lo vorrei neanche mettere in Anche perché va discussione. dimostrato, La insomma. motivazione per il quale la chiede, però mentre prima, quando avevi bisogno di usufruire di quel giorno mensilmente, cioè di quel giorno che poi non è un giorno al mese, però lo chiedevi e ti veniva tranquillamente dato perché c'era il numero sufficiente di lavoratori La rimpiazzata, insomma. Invece ora cioè sei in una situazione di carenza e quindi anche se ti è stato concesso la 104 hai delle difficoltà a programmarla. Sempre all'ascolto di Radio Wombat, sempre all'ascolto di Passaggi al Nord Ovest, ci sentiamo un altro pezzo musicale, è Il Gran Silenzio. volver a empezar. Porque si yo me caigo me tengo que levantar. Solo debo seguir avanzando más y más. ¡Primoy! De lo que yo quiero y no lo sé, no sé, no sé. Ya no quiero ir caminando sin saber a dónde voy, porque yo quiero estar seguro de lo que yo quiero y no lo sé, porque yo debo de saber, pero no sé. Y cada minuto que pasa me pregunto otra vez, por cuál camino yo caminaré. Yo tengo que pensar por dónde me dirigiré. Muéstrame el camino para vivir más tranquilo. Yo solo quiero saber lo que va a suceder conmigo y solo quiero seguir caminando por aquí. Volver a empezar, porque si yo me caigo me tengo que levantar. Solo debo seguir avanzando más y más. ¡Primoy! Eccoci qua, sempre Radio Wombat, sempre Passaggio a Nord-Ovest, e appunto parlando la lavoratrice della sanità, gli chiediamo appunto, recentemente, cioè, qualche mese fa, è stata la firma, oppure un contratto, di, ci vuol dire qualcosa a questo proposito? Tocchi un tasto molto a cuore per noi lavoratori, perché se pensi erano quasi 10 anni che eravamo senza contratto, è stato firmato un contratto che non ci ha portato assolutamente niente, è molto restrittivo sia a livello economico che per tutto il resto. Il caro vita lo conosciamo bene tutti, e aumenta il prezzo di tutto, ma non aumentano gli stipendi. E dopo 10 anni noi si sperava in qualcosa, cioè in qualcosa, si sperava che ci fosse dato il dovuto, quello che ci spettava, e invece sono arrivate veramente le briciole. E queste briciole, diciamo che le abbiamo riviste poi di conseguenza nei contratti integrativi, ecco, aziendali. Vorrei chiedere, prima di proseguire, cioè un contratto lettivo nazionale di lavoro riguarda i lavoratori della sanità, poi essendo aziende ci sono i contratti integrativi, cioè tipo per Careggi, per l'ASL 10, per Cisane, cioè per Pisa. È strutturato in questa maniera? Sì, cioè nel senso c'è un contratto nazionale che detta, diciamo, il come posso spiegarti? Le basi. Detta le basi, dalle linee guida, chiamiamole così, no? Poi ogni azienda tramite il contratto integrativo si mette tramite i tavoli di trattativa, trova degli accordi con la parte sindacale. E appunto mi dicevi del contratto nazionale carente, diciamo insoddisfacente dal punto di vista in primis economico. In primis sì, a livello economico, perché non ripeto, non ci ha restituito i 10 anni che noi siamo stati fermi con gli stipendi. E quello che è arrivato è veramente quasi offensivo, perché forse se non avevano accettato, non avevano firmato, era una dimostrazione di forza invece di debolezza, perché almeno io non sono tra quei lavoratori che dicano meglio poi ma subito, ma invece io vorrei essere pagata per quello che mi costa la vita fuori, lavoro per questo, per il mio fabbisogno, non per altro. E dal punto di vista delle mansioni, dal punto di vista, diciamo, della vita del lavoratore, dei diritti, sul posto di lavoro è rimasto più o meno. Più o meno è rimasto invariato su questo. Diciamo che si aspettavano alcuni lavoratori perché ci sono più professioni all'interno del comparto sanitario, ci sono gli infermieri professionali, ci sono gli OSS. Ecco, diciamo che si aspettavano un qualcosa di più, cioè il riconoscimento dell'operatore sociosanitario nel comparto sanitario, invece al momento è rimasto come figura tecnica. Quindi delusi su più campi siamo stati con questo contratto. Ecco, ti volevo chiedere considerazioni di carattere generale, diciamo anche da un punto di vista di eventuali iniziative, di cosa, ecco, ecco, dici qualcosa a proposito. Iniziative. Iniziative, allora, prima di tutto sarebbe molto interessante riuscire a sensibilizzare l'individuo, prima di tutto quindi l'utenza, il cittadino, su cosa significa perdere la sanità pubblica, perché non la stiamo perdendo. E questo abbiamo provato come lavoratori a fare anche delle assemblee di quartiere per parlare con la cittadinanza, ma non viene percepita la pericolosità della strada che è stata intrapresa sul servizio sanitario pubblico finché non ne hanno veramente bisogno e lì capiscano che è cambiato quasi tutto, Pesantemente. pesantemente tutto. E oltre a sensibilizzare diciamo, i cittadini, le persone, sarebbe anche giusto che noi lavoratori si fosse più sensibili su questo argomento, perché molte volte ci sentiamo complici di un sistema che ci sta stretto, perché, ripeto, il rapporto umano per noi lavoratori è quasi tutto, perché ti ridà quello che in quel momento hai bisogno, nel senso il rapporto con l'utenza è importante perché oltre a sapere la storia della persona e farsi un quadro un pochino più completo, ti restituisce quella parte umana che invece ti viene a mancare se entri nella mentalità che tocchi solo dei corpi. E quando tocchi i corpi devi avere, diciamo, rispetto, no? Verso la persona che hai davanti. E quella parolina in più tante volte serve molto all'utente, ma serve molto anche al lavoratore. Quando non hai tempo di fare quella parolina in più, Non hai tempo dettato appunto dalla riorganizzazione. non hai tempo proprio per la riorganizzazione che c'è stata. Questa diminuzione, questo risparmio sul personale, chiamiamolo proprio per Da come, tutti i punti di vista. ecco, chiamiamolo con la parola giusta. I risparmi si fanno sulle cose, nel senso dove è più facile farlo, no? Quindi si fa sul personale il risparmio e semmai ancora non si controlla determinati sprechi. E ringraziamo Maria per questa intervista, per questa nemmeno chiacchierata, questa panoramica delle problematiche sia dal punto di vista dell'utente sia dal punto di vista del lavoratore della sanità, in particolare rispetto a Careggi. Ricordiamo Radio Wombat, wombat.noblogs.org per ascoltarla in streaming, c'è la pagina appunto streaming. 1359 AM per ascoltarla in onde medie nella zona di Firenze. Ciao ciao. Vi saluto e vi ringrazio dell'ascolto e in un certo senso vi chiedo di riflettere su questo argomento, che è importante, la sanità pubblica. Ciao a tutti e a tutte.